già la tua gloria, la tua bontà. Come fuoco la tua luce trasfigura e matura tutta l'umanità. Il tuo volto disperde già la mia nebbia e falsità. E mi incanta la tua voce che seduce e conduce verso la verità. Cambia la luce ora, vedo chi sei. Il figlio di Dio, meta dei passi miei. La nuova luce dentro gli sguardi miei. Forza interiore che cambia l'esteriorità. Porta a te, trasfigurazio et revelatio, trasfigurazio est revolutio, trasfigurazio et revelatio, trasfigurazio.